andare via. Adesso no, quei momenti di magia, e dirmene andrò. Ho vissuto, sai, con te la mia follia, come un tatuaggio nella pelle mia. Tu non puoi giocare così con i miei sogni, dare a chi non sa chi sei i miei momenti. Mille riavventure avrò ancora di più, ma non cambierò mai il verbo solo tu. Noi fragili sguardi incerti e poi, noi passioni spenti o finti eroi. Ormai, stando al gioco tuo, se vuoi, non c'è un domani, anche se hai deciso tu d'andare via, resti un tatuaggio nella pelle mia. Yeah.